TamTam, Teenager Meeting, tutto un altro mondo, ha come obiettivo, all'interno di una grande manifestazione come il Festival delle Città Impresa, di individuare, di creare uno spazio all'interno del quale i protagonisti siano i cosiddetti rappresentanti della generazione Y, ovvero dei ventenni, persone che in manifestazioni che devono avere un richiamo internazionale, non sono così appeal, non sono così interessanti perché non sono ancora nessuno. In realtà ci siamo sforzati, io e cinque studenti della mia università, dell'Università di Padova, di individuare quattro storie esemplari di persone che a 20 anni, in alcuni casi anche meno, hanno espresso il loro talento, diciamo, le loro idee e la loro motivazione. Sono quattro storie che rappresentano quattro modi. Quattro dei modi attraverso i quali un ventenne può esprimere la sua progettualità. L'impegno sociale. Tre ragazzi dalle parti della zona di Rimini che fondano una cooperativa e convincono un imprenditore sul loro progetto che dà loro 5 ettari di terreno, un casolare e dei soldi per sistemare l'attività. Leonora Armellini, padovana, 17 anni, talento del pianoforte, che esprime quindi il talento artistico nella nostra idea. Poi c'è Soren Oberhof, un ragazzo che ha 20 anni, berlinese, si chiede perché non si possa stampare un giornale personalizzato, fatto su misura per ogni cliente. E l'idea è un'idea vecchia di 20 anni, nessuno l'aveva realizzata. Lui, con un amico a 20 anni, a Berlino, ogni mattina consegna ai suoi clienti un quotidiano personalizzato. E poi c'è Pina Picerno, la più giovane parlamentare del nostro Parlamento, che rappresenta l'impegno politico e quindi ci dice perché a 20 anni, a 26 anni, nel caso specifico, una persona invece di intraprendere la carriera professionale tradizionale decide di dedicarsi agli altri attraverso la politica. Le quattro storie che voi avete riunito sono delle storie emblematiche, nel senso che rappresentano le caratteristiche di questa generazione Y o sono un'eccezione? No, io penso che rappresentino in nuce quello che la generazione Y può fare. Ci sono però due elementi da tenere in considerazione. La difficoltà che gente come quella che noi abbiamo incontrato, che abbiamo portato incontra nella realtà, è la difficoltà a farsi notare, ad emergere in tempi ragionevoli. Uno dei difetti, uno dei limiti, potremmo dire, della società italiana, già segnalato da alcuni studi, è che rende difficile alle persone talentuose raggiungere posizioni di visibilità in tempi ragionevoli. C'è una sorta di diffidenza nei confronti dei giovani qua. Più che diffidenza, direi che mancano dei luoghi all'interno dei quali dei giovani possano esprimersi. Allora, la sfida di TamTam è creare un luogo nel quale, beh, intanto portare alla luce queste storie, e permettere a queste storie di confrontarsi tra di loro e con le persone più adulte, come me, che ho 40 anni, piuttosto che con le altre persone molto più mature di me che sono oggi qui in sala.